dalla parte del Papa. Perché probabilmente, siccome vi è a Torino, non tu, magari la donna ti fa vuole volere a tuo padre. A Torino? Sì. Sono vicino a noi. Sì, ma è in macchina. Ah, ecco. Allora, l'altro giorno lo sentivo bene quando era dall'altra parte, invece qua non lo sentivo. Ma ti sembra molto il furo dove abita? Forse lo sentivi bene, era due passi da casa. No, non lo sentivo allora. E invece dall'altra parte lo sentivo bene. Giuseppe, dimmi. L'altro Giuseppe tornava, va? Sì, no, ma qui a me arriva bello chiaro, anche se in DM arriva bene, spero che sia così anche il mio segnale, che gli arriva abbastanza bene. Scappa, Tornado qua mi arriva qua di 9.30, che zona c'è, Tornado? Io sono qui Sacro Cuore. Santo? Sacro Cuore. Io sono qua a parte di Via Levante, intanto mi arrivo in 9.30. Va benissimo. Ma qui fammi un passaggio un secondo, voglio controllartelo bene. 1, 2, 3. E qui arrivi 9.10, buono come segnale. La radio è buona, sì. Sì, sì, la radio tiro 5 pieno, segnale buono e radio bella comprensibile, bella senza nessun rumore di sottofondo, bella pulita. Sì, capa, io sono qua via Torino, parte bassa, dai, non parte alta, eh. Ma sì, qui tutto qui, segnale perfetto e radio bella pulita. Avanti il mio rune per il segnale dell'amico Giuseppe. Prova, io lo ascolto bene. Prova Giuseppe, ti do anche il segnale saltiamo, dai. 1, 2, 3, prova microfono, prova radio microfono. Sì, Santiago 8, la radio 5, dai. Ascolta abbastanza bene, Giuseppe, io come ti arrivo lì? Mi arrivi abbastanza forte, tornato. Mi arrivi abbastanza, mi arrivi quasi 9 qualcosa. Kappa, già va bene. Sì, non so che antenna c'hai tu, maledetto. Perché? Perché se già non vista l'antenna che c'hai tu, maledetto, che non c'è altro, allora c'hai mando qua 5, no? Kappa. Già l'ho vista. Ma lì c'è già 7 anni quasi. Come ti vuoi dire? Solo noi ci siamo in ruota, no? Ruota ci siamo io, tu, Paolo e Giuseppe, basta. Vabbè, libera qua il trabacco, come va? Ti ha portato la limita, ma già va bene. Positivo, anche domani il trabacco, tu no? Domani... più di oggi meno di ieri. Ohia, sempre si lavora da noi, sempre da forci, sempre da fare volto, e poi se non ce n'è c'è sempre da fare, basta che ti giri in giro e qualcosa c'è sempre da fare, eh. E tu? Cose qua, insomma, come quelli là, senza che quei quattro militari lì trovati che sono andati a fare servizio e non sono ritornati con la pala. Purtroppo sì. Diciamo che sono degli eroi, anche se molta gente dice che lo sanno quello che vanno incontro, sì, è vero. Uno spera sempre di che pare. E ne so molti più di uno di questi ragazzi giovani, specialmente c'è anche uno di quello di Arghero. L'ho visto. Capo, quello lì era molto il padre, è partito per fare qualche soldo per aiutare la sorella e la mamma, e invece se ne è mai invece ci è arrivato lui. E purtroppo la vita è così, oggi ci siamo, domani no. Eh speriamo, io lo spero, di fare qualcosa. Io mi auguro che questo di qua mi dia una mano, perché non solo per andare a spadare. Vediamo ora qualche cosa, però magari riesco a buscare, cerca di essere speranzoso. Speriamo, io spero che con voi, non so bene, c'è come il mondo, come dica, non si sbloca qualcosa qua, è vero, vero che in caso dobbiamo andare a farci, già capito che cosa. Ecco, fatelo, non ho bisogno nel circo. Che tipo, stavo facendo un lavoro per loro, certo, figurati che se mi chiamano meglio. Prima si poteva fare perché era il movimento e dunque 4 persone passavano, capito, 3, no, loro che io, perché lo ritiravo quella roba là, non era molto, però facciamo fine settimana, venerdì e sabato mi attaccavo quelle 60 euro, capito? Adesso mi è anche quello. Grazie. E nel bar qualche giro te l'hai fatto? Nel bar è positivo, niente, nulla, voglio gente piccolina, dai 16 anni in su, capito? Giravamo, è stato almeno un VTC, è stato un sacco di posti, altri spar, eccetera, eppure era grande, detto, solo che aveva l'esperienza e lo prendeva da tutte le parti. Adesso sta lavorando in albergo, perché lui in effetti ha fatto alberghiero, è stato diplomato come, come si chiama, come portinaio di notte. Va in Calabria, ma tutte, lo chiamano a tutte le parti qua, non è un problema di lavoro, ma magari avendo un curriculum qualche cosa in più riesce a farla. Io la ce l'ho il curriculum, ho messo tutte quante le cose, le, diciamo, lavori che ho fatto, gli insegnanti, i consegnanti, sai quante curriculum ho insegnato alle agenzie, non mi hanno mai chiamato, capito, mai a dire, beh, per questa volta chiamiamo questo signore qua, nulla. Abbi fede, avanti, Tomà. Cavallaro, i tempi non sono migliori, purtroppo, per questo benedetto lavoro, però, come dice anche il vecchio Rum, la speranza è sempre l'ultimo a morire, mannaggia. Bisogna avere tenacia, non mollare, girare, vedere un po', perché in una maniera o nell'altra deve sbucare fuori qualcosa da fare. È positivo. Allora, se io ti dico una cosa, che ho fatto 3 mesi e ti dico quanto mi hanno dato, mi dici che non è vero. Ho fatto 3 mesi a mezzo aereo, come custode, sai quanto ho ritirato i 3 mesi? 2800 euro. Cacca, quello è proprio prenderla a fame la gente, però sono bastardi sia dentro che fuori. Lo so che sono bastardi, perché ti prendono una persona adulta e dunque tutti i contributi, neanche non si assicura, neanche tutto quanto, e non rischiano, capito? Perché ricco dice che costa quanto assume. Sì, ci giocano molto anche su quello. Però strano comunque che nell'ambito, a quanto sono riuscito a capire io, come ha detto il doppio Rum, nelle cose dei bar, qualcosa si dovrebbe trovare. Hai provato venire a Roma al Mocambo? Positivo, ne ho lasciato uno, non è curito, ne ho lasciato 3 curito, uno a fianco all'altro dal bar, capito? Il primo che mi chiamava andavo anche a fare entra, come non me ne frega niente, l'importante è lavorare. Io fate conto, ho lavorato da Bosio quando c'era la cavalcata, per Palmarini, almeno sai quanto mi ha dato, tanto gli ho fatto 14 ore di dentro, ma invece, ma no, 80 euro. Sono abbandonati. Ascolta, quel mare che c'è, ti dico, tu sento che ti stanno tanto un po' fa, perché lì c'era ancora mio cognato, con una snippa che ha sempre fatto il barista, se devo essere sincero. Mi pare alla fine proprio di via d'Italia, dovrebbe rimanere in una via interna. Lui lavorava lì prima di spostarsi al locando, mi dice strano che come lui avesse mandato via mio cognato che abbia bisogno di una persona. No, aspetta un secondo, prova a chiedere a mia moglie se si ricorda, aspetta. Sistemiamo Giuseppe, speriamo, ti promettiamo nulla, ma io se sento te l'ho detto, non c'è nessun problema a dirti. Va bene, non è un caso, e anche fare anche i giornali così, magari potete lavorare voi, e il discorso è anche quello, che prima che mi chiama, io sto andando, guarda, non so lì a perdere tempo, io prendo una pizza e la materia una fatica e dunque so cosa vado in conto. Appagato. Oh già. Sì. Allora, lei dice che si chiama il Ginestro. Ah, Martina. Sì, si attende, che attende, oh. Tranquillo, Gabinelli. Microfono male, sei già. Appa. Va bene, vanno male questo microfono. Più che ottimi. Poi sono leggerini, belli. Sono leggerini e belli da manovrare anche, giusto quando si sdraiato, quando stare col dito sempre. Però questa storia della prova, delle prove di questo momento. No, è giunto ghietto, ci ti posso attendere, grazie. Ho trovato che scusa per la settimana scorsa, sai. Sono stato un po' troppo impulsivo, non ti preoccupare, non è successo niente, però ricordi che quando ti dico che qua è tutto a posto, perché le prove le stiamo facendo misurate per non poter creare problemi di impianto. Ascolta a me tu, non ascoltare gli altri. Cioè, per il visore non è tanto, ma senti, il televisore è a me. Un 5 centimetri più o meno da primo dado, dai. Poi me la faccio con la violina. Ok, sono già intestata